Beam Busters! Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. Ma mo si sente bene? Mo si sente benissimo. Vai. Benvenuti alla puntata 8. Quant'è questa? 8. La puntata 8 di Filmbusters. Io al solito sono Alessandro, l'ex Diro, e con me c'è il Monco. Ciao, bambina. Ciao. E il neo bannato da Games Village intrinseco. Un mesto ciao. Noi siamo dalla parte dei ritardati, non è che siamo come lui. Viva i ritardati. Insomma, sono rimasto l'unico a sostenere discussioni e a litigare con la gente. Va bene, ok, a posto. Dai, allora partiamo subito. Aspetta, vogliamo dire una cosa, che ieri è morto Chris Marker. Questa puntata è doveroso dedicarla a lui. Doveroso dedicarla a Chris Marker, che ha fatto che cosa? Il cortometraggio La Jetée, che non è quello l'importante, ma ha influenzato l'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam. E poi Sans Soleil, una serie di altri film sperimentali, documentari, film politici. È un regista interessante ma cioè, è morto prima di dimostrarlo. No, è una cosa, ha 90 anni. Ah, in 90 anni ha fatto un corto? No, un corto e vari film. Parecchio. Ho detto due o tre cose, ne ha fatti un bel po', parecchi film. Ok, e vabbè, allora pace all'anima sua, dai, partiamo... Partiamo subito con i trailers. O no? Sì, le illazioni. Con le illazioni, sì, i trailers. Illazioni sui trailer, che noi non capiamo come si possa parlare, ma ne parliamo. Sì. E il primo trailers di oggi è quello di Anna Karenina e ne parla il Monco. Ma se dici primo è trailer, vabbè, fa niente. No, prima di niente. No, trailers, l'ho detto apposta in maniera ignorante. Allora, poi... lo vedi? Vabbè. Va di moda. Anna Karenina. Karenina. È giusto? È intrinseco che ha studiato... Ha azzeccato lui, Karenina, non lo so. Di solito io la I non l'avevo messa. No, per la puntata sì. Diremo Karenina. Così. Karenina. No, Karenina, basta, non mi interessa. Allora, trailer di Anna Karenina e dite, ma quando è uscito? Mesi fa, però vabbè, un periodo di magra, mi ero dimenticato e ne volevo parlarne, ne parlo ora, alla faccia vostra. Anna Karenina, l'ultimo film di Joe Wright, che uscirà in Italia il 5 ottobre, quindi neanche tra tanto, e invece tra un mesetto in Regno Unito. Allora, Anna Karenina, romanzo di Lev Tolstoi. Conosciamo tutti la trama? No, perché ci sono anche i ritardati che ascoltano, ce li ricordiamo. E di cosa tratta questa Anna Karenina? Che è centrale appunto la protagonista, questa Anna, sposata con Alexei Karenin, più anziano di lei e più brutto, è proprio uno scorfano. Questa è una trama proprio essenziale. E lei si innamorerà di un giovane e bello conte, che non è l'allenatore della Juve, ma il conte Vroschi. Che anche lui andrà in patteggiamento, sentite. Questo amore... Che? È una risata, No, siete molto critici con la Juve, lo so. Un amore che cambierà la vita di Anna e cambierà un po' l'ordine all'interno della storia. Allora, Innanzitutto, che cavolo c'è da dire ancora su Anna Karenina? Siamo alla 25esima versione cinematografica o televisiva. Credo che la gara con il numero di versioni con Robin Hood sia un pareggio, o forse Robin Hood ha 28 versioni, insomma, forse in vantaggio. L'ultima versione era di 15 anni fa con Sophie Marceau, non so se cinematografica o televisiva, comunque si sentiva proprio il bisogno di farne un'altra versione. Regista è Joe Wright, che conosciamo tutti, ha fatto Orgoglio e Pregiudizio, suo primo film, poi ha fatto Espiazione, è il solista, l'anno scorso, 2 anni fa, Anna, quel thriller con Saoirse, si dice così, Ronin, quindi un regista molto interessante, inglese, ancora molto giovane, ma sta già mostrando una carriera in continua ascesa, e questo Anna Karenina sembra un po' un ritorno al suo primo film, Orgoglio e Pregiudizio, quindi un film in costume, nel passato, lontano dai ritmi dell'ultimo Anna, anche lì un'Anna c'era, e ma spero simile Espiazione come regia. Intanto, il trailer, è molto bello, insieme al trailer è uscita anche tempo fa una featurette in cui, oltre a intervistare i registi, il regista e gli attori, viene mostrato qualche scenetta in più in confronto al trailer, e vengono mostrati di più i set, la scenografia e i vari costumi. Allora, il trailer sembra molto interessante. Come era l'intento di Wright, si vede già una bella differenza tra gli elementi prettamente teatrali, sia negli ambienti che nei personaggi. Lui nella feature dice appunto che ha ambientato molte scene all'interno del teatro, perché questi personaggi del romanzo, quelli più nobili, più ricchi, vivono una vita quasi di finzione all'interno di delle scenografie, sembrano dei personaggi che si muovono all'interno di un ambiente teatrale, in contrapposizione con personaggi e ambienti più di vita reale, quindi i campi dove lavorano i contadini, personaggi molto meno letterari, molto meno nobili. L'elemento teatrale sembra molto preponderante, si vedono per esempio degli fondali che si aprono di colpo, facendo vedere come se si aprisse su un altro mondo, altri ambienti, sembra molto interessante e appunto un po' straniante. E poi dal trailer si nota una bellissima fotografia che è del, eccolo qua, McGarvey, che è un habitué dei film di Wright, anche se all'inizio non doveva dirigerle, non doveva essere lui il direttore della fotografia, ma un certo Russelot, che è famoso per aver fatto la fotografia di Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory e i due Sherlock Holmes, quindi forse è meglio McGarvey, soprattutto perché la fotografia mi sembra molto bella, non solo valorizza l'oscurità, gli ambienti scuri, ma riesce anche a dare molto più vita ai colori dei vestiti e delle scenografie, che sono veramente molto belli, e gioca appunto su questa contrapposizione, che sembra molto scuro come film. Nel cast Anna Karenina sarà interpretata da Keira Knightley, al suo terzo film con Edgar Wright. Keira Knightley sempre più diva, questa volta si dovrà confrontare con le vecchie Karenine del passato, che sono Vivien Leigh, Greta Garbo, Sophie Marceau, che magari Sophie Marceau non era così diva come le altre, però è un bel peso, un bel confronto con le altre. Nel cast anche Emily Watson, Jude Law, che sarà il marito vecchio e brutto, infatti molti dicono è truccato ovviamente, e altri dicono è un film di fantascienza, perché come fai a tradire Jude Law se è tuo marito, una cosa non lo faresti mai. Poi c'è Kelly MacDonald, famosa per Boardwalk Empire, e innamorato perso di lei è Intrinseco, lo sappiamo, vero? Ecco, visto? Svenuto. No. Interessatissimi, vabbè. Intrinseco, ti ha fatto la domanda. Avevo tolto il microfono così non si sentiva il naso, l'ho riattivato adesso. Ah. Non si sentiva il fiato, scusate. Non volevo dirlo così non rovinavo la frase. Bene. Matthew McFadden, e poi la parte importante del Conte Wroschi, doveva esserci Pattinson, ma ce lo siamo scampato, e c'è Aaron Johnson, famoso per Kick-Ass, Nowhere Boy e l'ultimo film di Stone, Le Belve. E niente, mi sembra molto interessante, anche se è la solita versione. Spero che Wright, che mi piace molto la sua regia, un regista che davvero mi piace moltissimo, ci metta del suo e lo renda molto, ma molto interessante. Ultima cosa, sceneggiatura di Tom Stoppard, famoso per Shakespeare in Love, Brasil, L'Impero del Sole, molto legato all'ambiente shakespeariano, ha fatto un paio di volte delle versioni dell'Amleto. Quindi io sono gasatissimo, non so voi. Prego, intrinseco. Io sì, mi condivido. È un regista che, diciamo, dove mette mano tira fuori qualcosa di buono tecnicamente, quindi sì, diciamo che anche se Anna mi è piaciuto, preferisco vederlo alle prese con un film del genere, che magari visivamente gli dà un po' più di possibilità di, non dico sperimentare, ma comunque di fare qualcosa di interessante. Sì, poi effettivamente sono contento per il cast femminile. Keira Knightley, lo sapete, non sono un grande fan, però non disdegno. Poi sì, ovviamente Kelly MacDonald, ma c'è anche Olivia Williams, che mi piace un sacco, sì, nonostante gli anni, che insomma, è una donna ormai a tutti gli effetti, mi piace molto. E poi c'è Emily Watson, che insomma magari a piace meno, ma è una presenza gradita. A proposito del cast femminile, dovevano esserci anche la stessa Ronan e Kate Blanchett, però hanno avuto altri impegni e quindi hanno dovuto rifiutare. Niente. Dovevano pulire il pesce per Capodanno? Sì. No, erano rinchiuse in un ambulatorio. No. Allora, no, boh, non sono proprio appassionato di questi film in costume, però sinceramente rivedere un'altra volta Keira Knightley in quelle vesti, insomma, comincia a essere un po' pesante, non trovate? No, è una strappona, a me va bene. Sì, vabbè, fa solo quello, non... ho detto, no, a me non piace troppo, personalmente, questo tipo di ruoli può permettersi e continua a farli. Non... Ok, va benissimo. Allora, non so, se non volete aggiungere altro, passerei al prossimo, sì, ovvero a Baby Call, ce ne parla intrinseco. Sì, riesco? Speriamo. Sì, dunque, io volevo parlare di Baby Call, è un film che scommetto che nessuno di voi ha sentito nominare prima, o comunque in pochi. Mi interessa perché, lo aspetto da un po', è stato premiato al Festival di Roma, al prestigiosissimo Festival di Roma, l'anno scorso, cioè più perché è premiato lui, è stata premiata la protagonista, Noomi Rapace, che interpreta questa madre in fuga da un marito violento, che si trasferisce col figlio in una nuova casa, e per la paranoia, insomma, legata a questo pericolo del marito che potrebbe ritrovarli, mette un baby call nella camera del figlio, che se non sbaglio comunque è già più grande, ha 8 anni, e questo baby call comincia a intercettare dei suoni, delle urla che non vengono dalla stanza del figlio, quindi gli ha fatto palo. No, era un pezzo di Fantozzi, magari prendeva anche quello. Darsi, pezzi di partita, sì, sono un po' di tutto, sì. Quindi sembrerebbe una ghost story, e dal trailer così sembrerebbe. Più che del trailer mi interessava parlare del film, perché da quello che ho visto, intanto è uscito pochi giorni fa, se non sbaglio il 26, e il film dovrebbe uscire a settembre. Ed è un trailer 24 agosto il trailer, sì. Ah no, il film, sì, ok, quindi fine agosto. Non sembra rendergli molta giustizia, ovviamente io il film non l'ho visto, quindi non sarei legittimato a parlare, però da quel che ho capito, dalle recensioni e da quello di cui parlano, insomma, i vari recensori, sembra che sia un film un po' più impegnato, almeno di trama. Scusa, però non so quale trailer hai visto tu, perché quello che ho visto io spiega forse anche troppo del film. Ma a quanto pare è molto concreto, nel senso, nel film si vede, sembra il classico thriller in cui succede questo e quello, invece da quel che ho capito è una cosa molto più particolare a livello registico. Tra l'altro il regista Paul Slataune, non so se si pronunci così, sulla E c'è un segno, insomma doveva essere una turbata comunque, che ha già vinto a Cannes con Posta Celere nel 97 ed è stato presentato a Venezia con un film che si intitola Anna Boer, e questo film dovrebbe essere, insomma, in continuità con il precedente Anna Boer del 2005, che gli piace molto sperimentare su questa cosa del ciò che è reale, ciò che è irreale. Il Baby Call dovrebbe essere uno strumento che poi da modo di portare avanti questa cosa, solo da quel che ho capito non è proprio riuscito come film, è un po' troppo ambizioso in questo senso. Però appunto a me nel trailer ha dato l'impressione di un banalissimo thriller, non so, ho visto quello italiano, non so tu. Sì, beh, comunque... Si fa vedere molto, è vero, però ecco, da quello che vedo non ha molte attrattive, invece da come me ne avevano parlato prima sembra una cosa molto più interessante. Poi cioè, ripeto, a me interessa più che altro per l'interpretazione di lei, visto che è stata premiata, e poi sono curioso, comunque è un film di cui si è parlato poco, stranamente forse arriva al cinema, quindi... Beh, se non altro comunque dal trailer si capisce che la tematica del film non è tanto il fatto che sia un thriller, quando piuttosto sì. Poi ci mette in mezzo anche violenza su minori, comunque sì, tutta la questione dell'affidamento, insomma. Sì, il fatto che il bambino poi dia versioni diverse, parli male della madre, come se fosse lei la minaccia. Sì, sì, è appunto questo, cioè, il trailer sembra banalizzarlo un po', poi magari è così, ecco. È un po' particolare. Si perde un po' su questo piano psicologico un po' ambiguo di cosa è vero, di cosa dicono i personaggi, di quello che succede, non è mai tutto troppo chiaro, quindi potrebbe essere un prodotto diverso, interessante, è uno di quelli che aspetto di più. Sì, dal trailer sembra un banale thriller, come dicevate, spero si riveli qualcosa di meglio, sembra interessante, spero solo appunto non sia né banale né debba per forza scadere in una cazzata o qualcosa del genere. Ok, e passiamo invece a un film che forse è il più ambizioso della nostra terna di trailer di oggi, ovvero Cloud Atlas. Cloud Atlas è il nuovo film dei fratelli Wachowski. Fratello e sorella, sì, esatto, perché Larry Wachowski è diventata Lana Wachowski. E non solo loro, è anche di Tom Tykwer. Sì, sì, esatto, è anche co-diretto insieme a Tom Tykwer, che fu regista di Lola Corre e The International, tra gli altri, insomma. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di David Mitchell, che è stato pubblicato nel 2004. E perché è ambizioso questo film? Allora, innanzitutto partiamo un attimo dal trailer. Il trailer è un filmato di 5 minuti e 40, mi sembra, comunque con secondo più secondo meno, e è troppo lungo, non so se voi avete sì, davvero troppo, anche perché per quello di cui parla si poteva usare benissimo almeno la metà del tempo, perché comunque è chiaro che è una storia su più livelli, va bene, era evidente, non serviva, cioè sì, non è neanche funzionale come lunghezza, ecco. È anche un po' fuorviante, nel senso che la particolarità del film è questa. Allora, le trame saranno 6, meglio diciamo 6 sottotrame, che andranno a comporre un mosaico più complesso. La sinossi del film recita, lo leggo, un'epica storia del genere umano nella quale le azioni e le conseguenze delle nostre vite si intrecciano attraverso il passato, il presente e il futuro, come una sola anima è trasformata da un assassino in un salvatore, e un unico atto di gentilezza si insinua nei secoli sino ad ispirare una rivoluzione. E vabbè, insomma, abbastanza sibillina, criptica, insomma, sta trama descritta in questi termini. In ogni caso, si pensa che, almeno da quello che si può evincere dai ruoli che si leggono su IMDb, che il film riprenderà le 6 sottotrame presenti nel libro. Anche qui, diciamo, da una letta veloce, insomma, a queste 6 sottotrame, c'è la prima che riguarda un avvocato che si ammala in mare su una barca e viene curato da un dottore che sostiene il darwinismo, e vabbè. La seconda è quella di un musicista che aiuta un anziano compositore a concludere le sue opere incompiute. La terza è quella di una giornalista che conduce un'indagine su una centrale elettrica. La quarta, un editore che pubblica il libro di un autore con il quale instaura una relazione che poi si rivela pericolosa, perché, come si vede anche dal trailer, in una scena questo autore prende per la collotta un personaggio mediatico e lo butta dal tetto di un palazzo durante un appuntamento mondano. Esatto, sì. La quinta sottotrama parla di un futuro distopico in cui c'è una clone cameriera che sviluppa un'insolita intelligenza e fugge con l'aiuto di un complice. E la sesta sottotrama parla di una società hawaiana che è tornata al pre-industrialismo e alle guerre tribali, e in questo contesto due coniugi intraprendono un viaggio verso un manufatto dell'antecedente mondo high-tech. E vabbè. Quindi la particolarità del film poi sarà che comunque gli interpreti di tutte le sottotrame saranno sempre gli stessi attori, solo che ovviamente da sottotrama a sottotrama l'attore cambierà il ruolo. Quindi insomma nel trailer si vedono, che te posso dire, Tom Hanks invecchiato in una scena, Tom Hanks con i basettoni e il cilindro in un'altra, casomai è un po' fuorviante trailer mostrare troppo. E poi vabbè, la soglia dell'attenzione per un trailer quant'è? 2 minuti e mezzo di solito? Neanche. Neanche, 1 minuto e 40 così, quindi insomma tirarla così per le lunghe. Per carità, quello che ho visto sinceramente mi ha catturato, perché dal punto di vista estetico non mi sembra poi così male, però santo cielo, 5 minuti davanti a un filmato, quasi come legge 5 righe su internet, insomma sì. E in ogni caso la struttura narrativa sarà, come cita Wikipedia, a matrioska, ovvero verranno prima raccontate le prime metà di tutte le sottotrame e in senso crescente, e poi in senso decrescente le seconde metà, per dirla in breve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, così sarà lo schema insomma. Gli interpreti saranno Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgis, Hugh Grant, Susan Sarandon, insomma un grande cast. Durata di 164 minuti e la Warner non capisco perché si è detta orgogliosa della durata del film. Sì, su Wikipedia c'è scritto questo, insomma. E del trailer, siamo fierissimi della durata del trailer. Più lungo è meglio, No, non lo sappiamo, non lo sappiamo. L'uscita sarà c'è l'uscita statunitense per il momento, che è del 26 ottobre, sarà pubblicato da Warner Bros, mentre invece negli altri paesi verrà distribuito dalla Focus Feature. E il film in ogni caso è una produzione tedesca ed è il film tedesco più costoso mai prodotto. Il budget infatti oscilla fra i 100 milioni e i 140 milioni di dollari. E dicevo, io comunque sono combattuto per il fatto che comunque quello che ho visto e quello che ho sentito sulla trama mi fanno pensare che sia un progetto molto ambizioso e senza dubbio interessante. Forse non ero così interessato sin dai tempi comunque di Tree of Life, delle voci che si dicevano del fatto che là fosse un film cosmico, insomma queste cose così. Caos. E vabbè, caosmico. Però sì, ok, mi intriga questo, però il fatto che siano coinvolti i Wachowski, ma non lo so, mi butta un po' giù, perché effettivamente la loro parabola è più che discendente, e anche quando avevano un ben materiale valido per le mani hanno fatto cose terribili come il secondo e terzo episodio della trilogia di Matrix, quindi... Ma, non lo so, speriamo bene, secondo me, da quello che si è visto dal trailer, anche perché le altre tematiche mi sembrano abbastanza lontane dallo stile dei Wachowski, molto probabilmente le prime sottotrame verranno gestite da Tickwer, mentre invece giusto la trama del futuro distopico verrà gestita dai Wachowski, insomma. Questa è la mia speranza, poi non lo so. Sì, non so, io spererei sempre che facessero solo i produttori, perché... Non lo so, come dicevi tu, è una parabola più che discendente, quindi se ci mettessero i soldi e basta in tutto, magari sarebbe meglio. Che invece, non so, i soldi non so quanti ce l'hanno messi loro, perché comunque è largamente finanziato da una società tedesca, però l'hanno anche scritto loro questa. Yeah. Ho paura, brivo. Sì, poi non so, spero che il cambio di sesso gli abbia fatto bene, non so, magari insomma, questa nuova pelle magari. Ma mi sa che ha già cambiato sesso ai tempi di Speed Racer, eh? No, è più recente, credo. Boh, può essere, non so, non è che segua così attentamente la cosa, potrebbe essere, sì. E allora no, allora non c'è speranza. Magari deve cambiare sesso anche l'altro, così diventano le sorelle Wachowski. Guarda che già Wikipedia dice che già dopo l'uscita di Matrix Reloaded, Larry Wachowski si faceva vedere in giro travestito da donna. Allora, e il cambio di sesso dovrebbe risalire... È l'altro che ha cambiato sesso, quella è la cosa strana. No, non è Andy. È comunque nel marzo 2010 viene già indicato come Lana Wachowski. Quando è uscito Speed Racer nel 2008, quindi sì, forse c'hai ragione tu, però... No, era una battuta, comunque sì. Non so, io... Non so, sarà stato il trailer infinito che mi ha scoraggiato, ma mi ha smontato subito. Poi sentirti leggere la trama mi ha fatto passare ancora più la voglia. Sono sazio e il film non l'ho neanche visto, non so. Non mi piace quando questi registi devono ripulirsi la fedina penale facendo il film impegnato, almeno a chiacchiere. E poi boh, tutti questi attori, tutte queste sottotrame, io non credo in grado che siano in grado di gestire una cosa così articolata. E boh, ora come ora non mi interessa. Mi sembra un calderone di cose che mi ha già stancato, l'ho detto, non so se cambierò idea. È stato presentato molto male, come dicevi tu, no, intanto è controproducente sia perché fai vedere troppo, sia perché a noi, e come è successo, e sia perché appunto, essendo un film articolato, piuttosto fai vedere poco, fai intuire, ma dover far vedere il personaggio in tre vesti diverse, a cosa mi serve? Sì, capisco che ci saranno le storie parallele, epoche diverse, però mi confondi solo. Sì, magari l'idea era, produrre curiosità. Come non c'è riuscito? Forse hanno proprio sbagliato a impostare la promozione. Il Monco, non so se vuole aggiungere qualcosa. È confusionario come la sessualità di Larry Lana Wachowski. Non lo so, questi film con più film dentro, cioè alla fine potrebbero essere benissimo 6 film, ma sono tutti accartocciati dentro uno solo. Mi danno sempre l'idea di, wow, abbiamo 6 idee, ma sono deboli, sono piccole, leghiamole tra loro e facciamone un film intero, quindi una sorta di film a episodi. E alla fine o li leghi molto bene, ma molto molto bene, o sono 6 cose separate e legate alla bene e meglio. Vabbè, 6 è un numero abbastanza consistente, non si è mai visto, no? Appunto. O non so se ci sono dei precedenti, perché comunque anche un Inarritu, 3 al massimo, 4, quante erano quelle dei Babel? 4-5, insomma. E poi comunque sono storie 4, sì, piuttosto semplici, che è facile intracciare, non c'è da lavorarci troppo su, magari. Sì. Qui invece mi sembra che poi bisogna vedere se le alterneranno come hai detto tu, più o meno faranno una specie di chiasmo, cioè inizierà in un modo e poi le rismonteranno al contrario, però appunto davvero sembra troppo. Mi sembra poi che il problema dei Wachowski sia che, tipo quello che è successo in Matrix, soprattutto con gli ultimi due, è che magari l'idea principale è molto carina, poi devono per forza spantigarla il più possibile per farne uscire in quei caso 2 capitoli. Qui sembra uguale, potevano benissimo cavarsela con quanto? Magari solo 3 sottotrame, passato, presente, futuro, era molto più semplice. Sì. No, invece devi per forza fare un casino, fare 6 trame, fare un mucchio di cose, e alla fine, prima di tutto, non hanno dato mai l'idea di saperlo gestire, e in più mi sembra che ci sia un ulteriore casino perché loro sono già in 2, e in più ce n'è un altro regista, quindi sono 3 galli nel pollaio, non capisco, c'è un casino della Madonna, già nel film, poi loro faranno di sicuro casino loro, più casino con l'altro, che non è di sicuro, non è un genio, ha fatto roba guardabile, per carità, niente di che. Sembra già una cosa che si distruggerà su se stessa, crollerà su se stessa. Poi sì, magari, tra l'altro, a quanto sembra manco, cioè hanno girato in maniera del tutto indipendente le scene, quindi ecco. Cioè proprio sto cercando, insomma, la nota dove ne parlava, però proprio le due truppe, ecco, Tico e i fratelli Wachowski hanno girato parallelamente le loro parti di film con 2 truppe completamente diverse, quindi cioè, anche i direttori della fotografia sono 2, c'è uno sdoppiamento riguardo tutto, cioè. Beh, che non è per forza un male, sono storie diverse, epoche diverse, ci sta, magari anche potrebbe anche essere un buon modo di differenziare anche stilisticamente le varie parti. Bisogna vedere se sono coerenti tra loro. Certo, vabbè, sì, insomma. Un pastrocchio. Che non puoi stravolgerle troppo, però l'idea di diversificare in mano a gente più competente magari sarebbe un valore aggiunto, no? Munco stava dicendo qualcos'altro? No, è la parte futuristica, mi ha colpito parecchio, mi ricorda vagamente 2046 di Wong Kar-wai. Vaghissimamente. A me ha ricordato anche un po' il film di Dio, come si chiamava? Immortal Ad Vitam. Però vabbè, più che altro per le architetture e comunque la questione comunque del futuro distopico. Però vabbè, dal punto di vista fotografico sono completamente diversi. Beh, quella sarà l'unica curata da loro totalmente, credo. Sì, un po' di zoppo, insomma. Però vabbè, io ci credo ancora, dai. Speriamo che facciano magari come il protagonista della prossima news e dividano in tre. No, la prossima news è la tua, quindi stai. Ah sì, ah, ok. No. Niente, sì, va bene. Quella prossima nel senso fra due news, ok. Perché okay. Mi hai rovinato la battuta, basta. No? Io la mia non la dico più. News. Fino a qualche anno fa, comunque, già da, anzi, credo subito dopo, l'ultimo Indiana Jones, per qualcuno dimenticabile, per altri magari meno, si parlava già di un possibile sequel, quindi di una nuova saga, qualcuno ipotizzava con Shia LaBeouf che sostituiva completamente Ford nel ruolo di protagonista, e quindi insomma si è iniziato a vociferare su questa cosa, e poi pare che già alla fine dell'anno scorso Lucas avesse fatto dichiarazione, insomma pare avesse già una trama. Io adesso non mi ricordo se avevo letto qualche news in proposito, probabilmente no, comunque non mi ricordo, e insomma pare che avesse già scritto la storia, fosse già tutto pronto, anche proposta a Spielberg, però gli ha detto non so, mi manca il MacGuffin, evidentemente per lui è comunque rimane l'aspetto principale su cui poggiare il tutto, però strano, aveva la trama e non aveva il MacGuffin, e quindi si è fermato lì fino a poco fa, perché pare che adesso, insomma pare, anzi sei sicuro che Lucas stia mollando la Lucasfilm quasi completamente. Ha già ceduto il posto di co-direttore, quindi co-direttrice generale, a Kathleen Kennedy, che è la moglie di Frank Marshall ed è stata la produttrice di E.T., Poltergeist, Ai confini della realtà, Indiana Jones, Il Tempio Maledetto, Gremlins, insomma, film di Spielberg e non, comunque prodotti da Spielberg. Che quindi, insomma, per ora è co-direttrice, ma pare che lo sostituirà completamente nella gestione della Lucasfilm. E quindi adesso, cosa volete, la notizia buona o quella cattiva prima? Cattiva. Cattiva. Allora, la cattiva è questa, insomma, ci sono due progetti in ballo, uno è Indiana Jones, di cui volevo parlare dopo, e quello del protagonista della notizia cattiva. Si vociferava su un nuovo Jurassic Park, non so se ve ne ricordate, c'era un rumor mai confermata, e pare che sia vero, è in preparazione un Jurassic Park 4, purtroppo, quindi per me è una notizia cattiva, voi magari cambierete idea, e mentre Indiana Jones, come dirò, sembra che stia per essere abbandonato, Jurassic Park è stato riconfermato, addirittura è in fase di scrittura, e sono stati assunti due sceneggiatori, Rick Jaffa e Amanda Silver, che non so se ricordate sono gli sceneggiatori di L'alba del pianeta delle scimmie, che può essere una cosa buona perché a qualcuno è piaciuto, quindi proprio, insomma non bisogna disperare, ma non è neanche troppo rassicurante. Quindi è già in fase di scrittura, quindi il film sicuramente si farà, insomma ormai hanno pagato gli sceneggiatori, è sicuro che sarà un sequel, per fortuna, e non sarà neanche un reboot, quindi proprio un capitolo nuovo, Spielberg ovviamente non dirigerà, e addirittura Marshall parlava di un'uscita entro i prossimi 2 anni, o comunque fra 2 anni ipoteticamente, ci credo poco però, e questa è la quella cattiva. Intanto aggiungo una postilla, pare che l'anno prossimo, in coda con questa serie di iniziative di rimettere i classici al cinema, ci ribeccheremo Jurassic Park, che riverrà rimesso al cinema, restaurato credo, e purtroppo in 3D come Star Wars Episodio 1, quindi si continua questa pratica, una buona notizia, lo rivedrei volentieri al cinema, in 3D come al solito me lo risparmierei, però insomma puoi mettere. Anche perché, visto che siamo coetanei, quando l'abbiamo vista a cinema eravamo veramente piccini, quindi... Questo sono sicuro, è un'emozione. Però sì, non ricordo i dettagli, quindi è un'emozione da rivivere volentieri. Sì, ecco, forse mi ricordo l'uscita dal cinema, però ricordi molto vaghi, forse ero un po' troppo piccolo per ricordare. Scusa, non ho capito, ma lo mettono anche nuovi effetti speciali? No, io ho letto solo del 3D... Però penso che sia sottinteso che gli avranno dato una restauratina, anche se non è un film che ne ha bisogno. Anche perché l'ho visto di recente in Blu-ray, però, non è che ne abbiano bisogno, anzi. No, infatti, quindi penso che al limite avranno rimaneggiato per il 3D, forse per dargli un significato come per Star Wars, però non ho letto altro, quindi probabilmente è il film, come lo ricordiamo noi, con questa aggiunta superflua. Pensavo che alla fine compariva l'ologramma dell'avvocato mangiato sul cesso, una cosa del genere. Magari. Ma comunque la news l'ho letta anch'io, è una cosa... Vabbè, comunque concordo con te col fatto che già il terzo era di troppo, figuriamoci un quarto episodio, non lo so quanto... Per quanto sì. Io sia innamorato sia della saga sia dei dinosauri al cinema, che sono sempre un bel vedere. Una cosa però positiva che ho letto è che comunque già hanno messo le mani avanti e hanno detto sarà un misto di effetti speciali e modellini, cioè il fatto che comunque... Sì. Continuino a utilizzare i modellini, secondo me è una cosa positiva, anche perché fu il punto di forza del primo Jurassic Park e quello che secondo me lo differenzia dalla gran parte di film con creature simili, perché comunque il livello di realismo raggiunto dai modellini della ILM fu veramente spettacolare, dal compianto Stan Winston, grandissimo. Sì, però mi preoccupa comunque, perché Marshall parlava di trionfo e effetti speciali, ora sì, probabilmente intendeva digitali e non, però mi sembrava un po' troppo pompato e poi conosciamo le produzioni spielbergiane recenti, però chissà, non voglio partire, però secondo me era una cattiva notizia il fatto che uscisse, è sempre una profanazione, come abbiamo già detto in altre occasioni. Però come dici tu, i giocatori sono comunque cavata bene con le scimmie, che in un certo senso anche quello è un brand comunque storico... Casomai sì, non coerente quanto è un buon parallelismo. Comunque si tratta di sequel, prequel, reboot, comunque di saghe classiche. Loro se la sono sbrigata recentemente. Non è un capolavoro, però sì, almeno era, si salvava come sceneggiatura. Sì, quindi non proprio. Non siete troppo dubbiosi, io non so, devo ancora digerirla. Quindi passo alla buona notizia, anche questa, sempre tutto relativo. Comunque, insomma, confermato questo Jurassic Park 4. Qualsiasi titolo gli daranno e a quanto pare invece questo Indiana Jones 5 forse se lo risparmieremo, perché pare che appunto con questo cambio di gestione Lucas abbia proprio preso le distanze dalla Lucasfilm, cioè non ha mollato lì, non trovava il McGuffin, sempre se questa news era vera, l'ha mollato lì, non gli interessava più, fa il cambio di gestione e pare che la Kennedy non sia proprio per niente interessata a portare avanti questo progetto. Quindi se non interessa Luca, se non interessa lei, Marshall, che non parla solo come portavoce, come marito della Kennedy, ha praticamente confermato che non interessa più a nessuno, né a Harrison Ford, né a Spielberg, né a Lucas, fare un quinto capitolo, e quindi diciamo che forse ce lo risparmieremo e niente. Sì, anche perché ormai Ford non credo sì. Che possa più vestire quei panni, e se come avevano paventato ci sarebbe stato... Shia LaBeouf, non so come sarei buttato dal palazzo, penso. Sì, poi insomma comincia a crescere, le ragazzine si rivolgono ad altri lead, insomma, non è più il ragazzino magari che era qualche anno fa, non so, sì, insomma, per me è una notizia da festeggiare. Ma sì, chi sì. Se ne frega, ma parliamo più che altro di Jumanji il reboot, no, quello lo faremo un'altra volta, ecco, una bomba. E via. Sì, non so se il Monco voleva... No, io tutto sto solo pensando a Jumanji, il reboot di una saga che non era una saga, quindi... cioè, non vedo l'ora, oh, Jumanji... E vabbè, allora passiamo invece alla prossima news, prima dell'argomento forte di questa puntata, parliamo un attimo... del recente comunicato della New Line Cinema... che parla appunto del fatto che Peter Jackson e la produzione del Signore degli Anelli e del prossimo Lo Hobbit hanno deciso di smembrare proprio quest'ultimo, ovvero Lo Hobbit, in tre film e non più in due come era già stato preventivato, insomma. E come saprete bene, il primo episodio, ovvero Lo Hobbit, un viaggio inaspettato di cui abbiamo anche parlato qualche puntata fa, non so proprio due puntate fa, mi sembra, la puntata 5, insomma. Quando era uscito il trailer italiano. Sì, esatto. Quindi dicevo, questo primo episodio sarà distribuito dal 14 dicembre 2012, il secondo il 13 dicembre 2013, mentre invece il terzo capitolo è previsto per l'estate del 2014. Quindi, vabbè, il comunicato, insomma, immagino che l'abbiate letto tutti, perché si trova praticamente su tutti i siti principali di news cinematografiche e non. Però c'era un paio di passaggi che volevo evidenziare. Allora, vabbè, innanzitutto immagino che siamo tutti abbastanza smaliziati da pensare che era una cosa già pensata dall'inizio, perché insomma non penso che uno decide di girare un film ex novo dall'oggi al domani dopo aver prodotto comunque due film del genere. E vabbè, e questo insomma è evidenziato anche dal comunicato, dove si legge che tutti e tre i film saranno che sotto la regia di Jackson tutti e tre i film sono stati girati, quindi già si parla al passato, quindi già si sa che il materiale è quello, non è che ci saranno scene rigirate e cose del genere. E vabbè, un altro passaggio invece che volevo evidenziare, che mi ha messo un po' i brividi, è questo. Allora, cito testualmente: la ricchezza della storia degli Hobbit, così come di alcuni materiali correlati presenti nelle appendici del Signore degli Anelli, ha fatto sorgere una domanda spontanea: cogliamo l'occasione di aggiungere qualcosa alla storia originale? E la risposta, dal nostro punto di vista, di produttori e fan, è stata un sì senza riserve. Ora, se fanno riferimento solo alle appendici del Signore degli Anelli, ma anche alla... non so se già l'Hobbit aveva comunque... delle appendici, comunque c'è una versione annotata, e quindi vabbè, se quindi si riferiscono solo a quel materiale, tutto sommato non è poi così male, perché comunque è materiale di Tolkien. Certo, stiamo a fare un po' il collage, perché insomma qua appiccicare elementi che non stavano comunque nella trama originale è un'operazione che di dubbia qualità, insomma. E vabbè, però quel fatto che loro dicono cogliamo l'occasione di aggiungere qualcosa alla storia originale, non vorrei che comunque si inventano cose ex novo, anche perché già l'abbiamo visto, le trovate di Peter Jackson stonavano già nella trilogia del Signore degli Anelli, quindi non vorrei che ci ritroviamo con gli elfi veramente sullo skateboard come fu in passato. Non so, voi pensate che ne pensate di questo? Voglio sapere anche che ne pensate del fatto che c'è abbastanza materiale nell'Hobbit per farne tre film. Insomma, intanto bisogna vedere esattamente chi l'ha avuta l'idea con lo skateboard, perché insomma, e poi comunque spero che non intendano fare un film solo con queste scene, ecco. Poi conoscendo Jackson, al di là di quello che hai detto tu, a me sembra che sia proprio come posizione antitetica rispetto alla modifica. Cioè, se dicono rispetto all'originale, immagino intendono sempre solo rispetto al romanzo l'Hobbit e non all'opera in generale, quindi se vogliono aggiungere, spero e penso che prenderanno sì dalle appendici, dal Silmarillion, comunque approfondimenti sul background, ma non credo che andranno a inventarsi situazioni e scene. Poi insomma, io ho visto i backstage dei film e l'interesse che ci mette Jackson mi fa sempre ben sperare, però certo un film in più, poi come dicevi tu, è strano, certo non giri due film e ti accorgi alla fine che non hai tempo. Anche perché, come avevano già fatto con la trilogia del Signore degli Anelli, hanno girato tutto insieme e piano piano li rilasciavano, quindi era sicuramente già tutto programmato, e io penso che se non lo era anche in questo caso, comunque poco ci mancava, perché insomma non è un progetto da due lire che ti sfugge di mano e dici cacchio, non mi manca il tempo, dobbiamo girare un altro film, cioè è inverosimile. Per cui questo potrebbe essere una buona notizia, cioè, se semplicemente avevano detto una cosa e non sono stati, hanno voluto dire la boiata e poi adesso fanno finta di essersene resi conto, vuol dire che il film sarà quello, semplicemente terrà più lungo perché vogliono approfittare dello spazio. Però mi viene da dire, ma perché non hanno approfittato col Signore degli Anelli e mettendo quello che mancava e evitando certe cose, e invece qui che magari il materiale era meno, fare come hanno fatto nel Signore degli Anelli, cioè riassumere, due film sarebbero stati più che sufficienti. Certo, è sottinteso che ci sono dietro i soldi, che ci sia dietro l'interesse di... ma a me questo aspetto non interessa più di tanto. Se il film verrà come viene, come sono venuti i tre della saga, ben venga. Certo, mi darà fastidio aspettare, ma per quanto mi riguarda i fastidi finiscono lì. Sì. Non essendo fan del fantasy né avendo letto il libro, non so se ci mettono le robe in più, non mi tocca sinceramente. Però avevo notato che dicevano che ogni capitolo, quando dovevano essere due, doveva durare intorno alle 180 minuti l'uno. Adesso che diventano tre, sarebbero tre film da due ore l'una. Quindi non mi sembra che sia così tanta roba. Hanno fatto i furbi. Potevano far benissimo due film da tre ore, tanto i film da tre ore ci sono, per esempio quella roba lì dei Wachowski. Invece dilazioni così, poi dilazionare in quel modo che... due anni e mezzo dobbiamo starci dietro, cioè, ma chi ci sta dietro? solo chi è davvero molto fan, ma comunque... Vabbè, oddio, uscire... da questo punto di vista non credo, perché comunque è un brand talmente famoso che catturerà l'attenzione mondiale per 3 anni, come è successo anche per Selezione degli Anelli, insomma, non è... Però non credo che ci sia quel rischio. Insomma. Poi ripeto, comunque, che se qui staranno dicendo una cosa, ma avranno già finito, il film, cioè manca un film, ma hanno già girato tutto. E secondo me, appunto, non avendo detto veramente le cose come stanno, anche il terzo ipotetico, se non l'hanno finito, poco ci manca. È solo un fatto di diluire il guadagno in più tempo possibile. Chiaramente non li fanno tutti e tre in un anno, come non succede per tutte le saghe. Beh, comunque, al di là del guadagno, le date sono alquanto sospette, perché i primi due escono in periodo Oscar, quindi hanno già l'obiettivo è già chiaro, mentre l'ultimo stranamente in estate, non ci pensano più, cioè gli basta prendere un bel po' di Oscar con i primi due. No? Boh. Che poi se succede come il Signore degli Anelli sarebbero catalizzati tutti sul terzo episodio, quindi... appunto, vabbè. Cioè, non lo so... E vabbè, dai, allora passiamo alla ciccia vera, ovvero all'argomento principe di questa puntata, ovvero il Festival di Venezia del 2012. Ce ne parla il Monco. Il principe Milito, il principe è regolare. Ecco, allora. C'è uno di principe, il principino Marchisio. Il principino, pensate. Gay. Allora, meno di un mesetto, perché inizia il 29 agosto e finirà l'8 settembre, inizia il Festival del Cinema di Venezia, giunto alla sua 69esima edizione. Breve introduzione del festival negli ultimi anni. Abbiamo notato tutti, essendo anche italiani, essendo quindi vicini al festival, come sia nell'ultimo decennio, 2000 in avanti, sia... come dire, crollato in maniera costante di vari gradini in confronto agli altri festival importanti come Venezia e Berlino. Negli ultimi anni molti film importanti snobbavano Venezia, o anche personaggi importanti la snobbavano, venivano premiati film che in alcuni casi suscitavano l'ira del popolino, perché erano film incomprensibili o cose del genere, fino ad arrivare al totale cambio di rotta con la vittoria di Somewhere, che invece non meritava secondo molti, poi vabbè, insomma, sono gusti personali, però insomma era evidente che Venezia stava sempre di più sprofondando come la stessa città. C'è stato un cambio l'ultimo anno, facendo vincere Faust di Sokurov, sembrava voler dire guarda, anche noi comunque siamo a un certo livello, voi avete magari Malik e avete altri, ma noi abbiamo Sokurov e l'abbiamo premiato, beccatevi questa. Comunque, questa breve risalita sembra continuare quest'anno, ma sotto la mano di un altro direttore, perché fino all'anno scorso direttore della manifestazione era Marco Muller, che invece è stato criticato tantissimo durante gli anni da chiunque, e finalmente è stato cacciato, finalmente secondo qualcuno. Comunque non preoccupatevi, è già stato assunto per il Festival del Cinema di Roma, quindi non è rimasto disoccupato molto. E al suo posto è entrato quest'anno Alberto Barbera. Breve introduzione di Barbera. Chi è? È un critico cinematografico, già a Venezia direttore dal 98 al 2002, nel 2010 è stato direttore nella giuria a Cannes, e nel 2004 ha curato è stato direttore del Museo del Cinema di Torino a Torino. piccola nota, migliorate il reparto acquisti del Museo di Torino, perché fa veramente schifo, chiusa. Quindi nuovo direttore, nuovo tutto, c'è anche un nuovo regolamento che ho letto, ma sinceramente non ho capito quali siano le piccole modifiche fatte. Si riparte tra poco, si è già deciso varie cose, non sono ancora decisi tutti i film in concorso, però cosa hai già deciso? Prima di tutto, importante per me, Kasia Smutnia che è la madrina, e siamo tutti contenti di questo. Film d'apertura sarà il film di Mina Nair, che ha vinto il Leone d'Oro nel 2001 per Moonsun Wedding, e quest'anno non sarà in concorso, fuori concorso, con The Reluctant Fundamentalist, tratto dall'omonimo bestseller, super incassi in tutto il mondo, tradotto in 25 lingue, che parlerà di un giovane pakistano che lavora a Wall Street nel periodo in cui c'è l'attacco alle Torri Gemelle. Quindi sarà un conflitto interno tra il suo sogno americano, la crisi internazionale e un richiamo sempre costante della sua patria. Nel cast Kate Hudson, Kiefer Sutherland, Liv Schreiber, eccetera. Questo è l'apertura. Film in concorso, finora sul sito ce ne sono 17, più la new entry di oggi che, non essendo scritta, prendiamola ancora con le molle, non è ufficialissima, però adesso ne parliamo. Film in concorso, parliamone un po', ce ne sono 3 italiani, quello di Bellocchio, La Bella Addormentata, che parlerà della Englaro, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata, il film di Cipri, Da solo, senza Maresco, con È stato il figlio, tratto dall'omonimo romanzo di Alaimo, nel cast c'è Serville, sembra una storia molto interessante, quasi surreale, parla di questa famiglia che vive in un quartiere povero di Palermo e durante una sparatoria, un regolamento di conti tra la mafia, uccidono la figlia di Servillo. Non so bene se ci sarà il dramma qui, ma vengono risarciti con una bella somma e con questa somma si comprano una super berlina fiammante che la fanno vedere a tutti, insomma si vantano di questa macchina nuova. Il dramma arriva quando il figlio la prende al padre e gliela boccia. Cioè, sembra una storia stranissima, ma è già interessantissima così. Poi in mano a Cipri, chissà cosa diventerà. L'altro film italiano è della Comencini, Un giorno speciale. Per il resto, titoli interessanti e soprattutto autori interessanti. La new entry di oggi è che molto probabilmente ci sarà The Master, il film di Paul Thomas Anderson. Ripeto, non è ufficialissimo, però il 99% c'è. Tutti si erano stupiti che all'inizio non c'era. Poi c'è Pietà, in italiano proprio, di Kim Ki-duk, che sembra ritornare alle sue vecchie trame, le sue vecchie storie, dopo quella piccola parentesi con Ari Rang, per cui tutti hanno detto che ha finito le idee, se la canta e se la suona da sola, Kim Ki-duk è morto, vedremo se qui ritorna. Parlerà di uno che lavora per uno strozzino, è un uomo senza pietà, che però incontra una donna che dice di averlo abbandonato da piccolo ed è sua madre, con risvolti successivi. Poi c'è De Palma con il suo Passion, Kitano, stranamente, una scelta a me sembra molto strana, con il seguito di Outrage, un film uscito 2 anni fa, questo qua si chiamerà Outrage Beyond, prima era un film interno a questa gang mafiosa, a questa gang della Yakuza, e adesso invece sarà più su tutto il Giappone, tutta la criminalità nel Giappone con la polizia alle calcagne. Spero sia un po' più interessante del primo, che non era il massimo, ma comunque era già meglio degli ultimi film di Kitano. Poi c'è Corinne, anche questo strano, con il suo Spring Breakers, con le protagoniste biotte, che saranno Selena Gomez, Vanessa Hudgens, come volete, Ashley Benson e Heather Morris. C'è il preferito di tutti, Malik, con il suo To the Wonder, di cui abbiamo già parlato. E per adesso mi fermo, poi parliamo anche dei film fuori concorso. Voi, di quelli in concorso per adesso, cosa dite di questa edizione? Sembra gagliarda, dai nomi. Sì. Io, oltre a quelli, ovviamente Malik, Cipri, che forse me lo sono sognato, ma non c'era già un trailer del film di Cipri? Penso di averlo visto. Non sono sicuro. Mi ricordo un trailer con Servillo, quando era stato detto che sarebbe uscito questo film. E sono curioso perché, appunto, da grande fan di Cipri Amaresco, voglio vedere cosa combina lui da solo. Mi sembra un film molto meno surreale dei suoi. Probabilmente il suo stile sarà, ci sarà, insomma, sarà presente, però mi è sembrato molto più canonico come film, per cui voglio vedere come se la sbriga con una trama più concreta, con scene meno surreali, meno visionarie. Comunque sì, c'hai ragione, è uscito già un trailer. Sì, perché avevo visto, stato forse quando abbiamo fatto la puntata del Cine era saltato fuori, ma non so, comunque mi ricordo di averlo visto e ecco, mi ha sorpreso perché piuttosto normale per essere un sofì. Comunque, curiosità al massimo. Sì, poi per non recitare quelli che hai già detto, aggiungo un altro. Ho visto che, se non sbaglio, in concorso c'è anche Sina Pupunan, comunque Tai Womb di Brillante Mendoza, che di cui non so molto, però l'anno scorso, 2 anni fa, aveva girato questo Brillante Mendoza, aveva girato Kinatai, Massacro, sull'omicidio di una donna. Ed era un film molto forte, aveva turbato parecchi, se ne ha parlato molto perché era particolarmente crudo, più che nella messa in scena, comunque nel modo di affrontare questo gesto violento, e ha attirato l'attenzione di molti e anche la mia, per cui tra i grossi mi interessa anche questo in concorso, poi vediamo il resto. Sì, più o meno avete detto tutto voi, effettivamente è una selezione abbastanza gagliarda, forse è un gradino più in basso rispetto a quella di Cannes, per dirne uno, il Cannes di quest'anno, però vabbè, poi casomai questa è una tematica che trattiamo più avanti, dopo che hai citato anche gli altri film, insomma. E vabbè, sì, aspetto tantissimo il nuovo film di Bellocchio, anche questo di Cipri mi sembra molto interessante, non lo conoscevo finora, da come ne avete parlato non sembra male, e sì, una bella selezione, se sarà confermata anche dei master di Paul Thomas Anderson, insomma, farà fare un bel salto di qualità. Poi sembra che ci sia una bella gara, insomma, tra De Palma, tra Kitano, tra Kiduk, tra poi gli outsider, quelli che potrebbero magari uscire con chissà che filmone, Paul Thomas Anderson, Malik, Bellocchio, insomma, sono tutti dei candidati al premio, quindi sembra tanti una bella... Sì, sembra una tanti bella gara. Nomi, sì. Mentre, è stata diramata questa lista e siccome siamo in Italia e siccome siamo dei deficienti, non si è parlato più che altro dei film, ma del fatto che ci sarà Selena Gomez e Zac Efron in Laguna, vabbè, siamo dei deficienti. Tra l'altro è uno dei primi festival in cui Medusa non ha quasi il totale controllo di tutti i film, perché mi sembra che ne abbia solo 3 in concorso, una cosa strana, forse è anche dannosa, perché di solito con Medusa ce li trovavamo subito in sala, vabbè, però fa niente, vedremo. Film fuori concorso invece, tra i vari, poi magari ne avete segnati anche voi, c'è di interessante, prima di tutto quello di Robert Redford, The Company You Keep, che appunto ne avevamo già parlato col Cine. C'è Spike Lee con il suo documentario su Michael Jackson, Bad 25. Sarebbe stato meglio vedere l'altro suo lavoro, Red Hook, però va niente, vedremo più avanti se arriverà. C'è Susan Beer con Love is All You Need, prodotto dalla Zentropa e di quella di come si chiama? Aiutatemi, Lars von Trier. E ha già una data italiana, 21 dicembre, uno dei pochi che sappiamo già che uscirà direttamente. C'è Jonathan Demme con un documentario su Enzo Avitabile, musicale. C'è Amos Gitai con un film però del 2009, mi sembra, infatti avrà una proiezione speciale. C'è Manuel De Oliveira, che ha 104 anni ma è ancora immancabile. Sì, io credo che lo tengano vivo gli festival. Ma sotto Venezia non c'è tipo ogni anno? Sì. Tanto ha sempre qualcosa da presentare, se non è uscito ufficialmente è un vecchio film. Ma io credo che se non lo chiamano muore, cioè, sì, finisce lì, lo tengono in vita davvero per quello. E poi segnalabile, visto che se non sbaglio Shock Labyrinth 3D era stato proprio presentato a Venezia, c'è Shark 3D che arriva dal Singapore, vabbè, si capisce già tutto dal titolo, chissà che cagatona sarà, vabbè. E poi segnalo che tra i classici restaurati, una cosa che si fa ogni anno, quest'anno ripropongono Fanny Alexander di Bergman, interessantissimo, e poi magari meno interessante, però storicamente rilevante, I cancelli del cielo di Cimino, che è il famoso film che ha distrutto la United Artists, l'ha fatta fallire, e sarà una versione nuova con 70 minuti in più, quindi durerà 219 minuti, tutti da godere proprio. A voi. Allora, sì, sì, fuori, forse, ecco, se non fosse per i grossi nomi sarei più intrigato ai fuori concorso, perché vabbè, intanto Amos Gitai, che è presente sì con Lullaby to My Father, che probabilmente è vecchio, però è anche in proiezione speciale con Caramel, quindi due film. Poi uno dei più interessanti, a parte quello che hai citato tu, di cui non so nulla, almeno come regista, o forse sì, ma non mi ricordo il nome, è Jean-Pierre Amery, che ha diretto L'Homme qui rit, L'Uomo che ride, che è, non so se è un adattamento fedele o no, comunque un adattamento di un romanzo, del mio romanzo preferito di Victor Hugo, L'Uomo che ride, che potenzialmente, cioè ho sempre sognato di fare un film sull'Uomo che ride, perché esteticamente potrebbe essere poderoso, e ho sempre voluto un bel film, ne hanno già fatti, se non sbaglio ne ha fatto uno anche Corbucci, insomma è un soggetto interessante, se ne sono sempre resi conto, ma nessuno ci ha mai provato seriamente. E non so questo Amery come se la sbrigherà, ma è uno dei film che mi interessano di più in questa selezione. Poi ho visto che nelle proiezioni speciali forse c'è anche un film di Mann, Witness Libya, però non ho capito se non so se è un documentario, non so bene di cosa parli. E c'è anche un film di Vicari, che stranamente non è né in concorso né fuori concorso, è un film italiano. Poi Vicari è uno che, insomma, si era fatto un nome, per cui mi sorprende non vederlo più in vista. Tu? Allora, io dico un po' di nomi a caso, poi mi dite se sono meglio o peggio, insomma, di quelli che abbiamo visto, insomma, tra quelli in concorso e quelli fuori concorso, che vedremo, insomma, a Venezia, ecco. Allora, Wes Anderson, Jacques Audiard, David Cronenberg, Andrew Dominik, Matteo Garrone, Michel Haneke, o Michel è austriaco o no? Sì. John Hillcoat, Kiarostami, Ken Loach, Christian Ungiu, vediamo un po', Alain Resnais, Walter Salles, Bernardo Bertolucci, Takashi Miike, insomma, Ander. Fatih Akin. Sono meglio o peggio? Sono meno, semplicemente. Sono un po' meno, non mi sembra, anche perché poi comunque sono dei nomi grossi che bastano e avanzano, no? È un Malik che quest'anno a Cannes, insomma, non è Tree of Life, ma magari ci si spera in qualcosa di altrettanto, insomma, cioè che Malik già riempie un bel po' di vuoti. Poi Anderson, insomma, Paul Thomas Anderson. Sì, ma non so, no, secondo me non che è Venezia, una... questi nomi qui sono, boh, io mi ritengo soddisfatto. Appunto, no, poi è una risalita, non... Sì, eravamo a livelli... Ancora non affido il discorso, però. Ah, vai. Sì, no, vabbè, conto comunque di, però non trae delle conclusioni, insomma. Ah, no, vabbè, dico, comunque è una risalita, Venezia, stiamo rivedendo la luce, va già bene così, vai. Ok, allora, vabbè, Venezia ci sarà a fine, inizio settembre, mi pare, no, le prime due settimane di settembre. 29 agosto, 8 settembre. Due mesi dopo, che ci sarà? Ci sarà il nuovo Festival di Roma, comunque direttore Marco Müller, che vabbè, avrà fatto le sue scelte, però in ogni caso ha avuto anni di onorata carriera come direttore di Venezia. Dico questo, no? Allora, già, come avete detto voi, i nomi di Venezia comunque sono paragonabili, cioè li si può mettere sullo stesso piano rispetto a quelli di Cannes, no? Io dico questo, a che serve avere due festival a così poca distanza in Italia? Cioè, se si fossero unite le risorse, cioè, cosa ne sarebbe uscito? Il festival migliore d'Europa? Sì. Forse sì, sì. Quindi, insomma, cioè, non capisco... Anche perché, cioè, fossero due festival sullo stesso livello, ti dici, vabbè, ce li teniamo, ma Roma è effettivamente... Poi si becca un po' gli scarti, questa è l'impressione. Parlavo prima di Baby Call... È un film che si è visto lì e almeno poi non so, magari non seguendo tutti i festival del mondo, non so, però non l'ho visto in vista altrove, sì, quella è l'occasione per il cinema minore, però sì, magari integrandolo in un unico più grande festival potresti avere questi grossi nomi, il cinema d'autore disperso, come tanti di quei film di cui abbiamo parlato, sì, ecco, a questa breve distanza comunque non ha senso. Potrebbero essere distanziati e trattati meglio entrambi e sopravvivere. Non vedo necessariamente il bisogno di fonderli, però ecco, sì, il fatto che siano così vicini non fa bene a nessuno dei due. Ma Roma è anche nuovo, cioè è nato nel 2006 se non sbaglio, quindi cioè è proprio stato piazzato lì come se la gente del sud non può viaggiare fino al nord, quindi cioè, glielo piazzi lì al centro un festival, così magari si vedono anche loro il cinema. Boh, sì, in effetti non ha senso, soprattutto appunto così vicini. Però dove lo metti se no sto Roma? Lo metti sotto Natale? No. Lo metti più avanti? No, e arriva Cannes. Lo metti in un'altra parte? C'è Berlino, in un'altra parte c'è Toronto, in un'altra parte c'è il Sundance. Sono tutti lì. È vero che non ha senso metterli vicini agli italiani, però forse era l'unico buco. Il senso è proprio che è nato 6 anni fa e rompe già i coglioni. Ecco. Che poi... Cioè, parlavi del fatto che comunque la parabola del festival di Venezia con Müller è stata una parabola discendente, no, negli ultimi anni. Forse è anche la vicinanza con un altro festival che per forza di cose doveva programmare qualcosa, doveva pur proiettare qualche film, che ha determinato questa inflessione. Quindi sì, effettivamente come dici tu, forse è l'unico, come dire, frangente di tempo in cui si può andare a inserire un festival, però quello che mi chiedo io è proprio che non sarebbe da fare questo festival. Poi vabbè, ovviamente è un discorso, diciamo, per assurdo, utopistico, però insomma è stato usato come uno strumento politico questo festival, è stato fortemente voluto da... Vabbè, non facciamo politica, dai, sennò poi... E niente, quindi sì, volevo solo far notare questo, il fatto che comunque per Cannes ci si immagino che tutte le risorse francesi in quel vengono appunto canalizzate verso un comune obiettivo. Qui addirittura ci stanno delle dichiarazioni di Müller che fanno, sembrano quasi dichiarati di guerra, insomma, dichiarazioni di guerra, quindi vabbè, appunto, so, poi... siamo un paesetto, insomma. Figurati, lui che è stato cacciato gli dichiarerà guerra. E poi volevo anche dire che prima di questi due c'è Torino, quindi sono proprio di fila tutti e tre. Vabbè. E vabbè, pure Locarno, a cui ricordiamo che andrete voi, certo vabbè, un festival minore però. No, vabbè, però è Svizzera, che gli devi dire? Ah vabbè, infatti, sì, vabbè. Vabbè, Canton Ticino, dai, siamo là. Sì, vabbè, comunque è così minore che... È una caccoletta, non gliene frega niente a nessuno a parte noi. No, ma ne dobbiamo parlare, sei pure tanto simpatici che ci hanno risposto su Twitter. Vabbè. Beh, è un festival minore, fa molte rassegne, insomma, non è un minore negativo, è più piccolo. Simpaticissimo, magari ce ne fossero di più di iniziative. Sì, sì, se si riuscissero, ecco, per quello dico, Roma non deve essere per forza un peso. Cioè, Locarno va bene, non ha per forza le novità, anzi, guardando i programmi di quest'anno, cioè, c'è la novità, ma sono film... che magari vengono distribuiti solo all'estero, cose un po' più interessanti, che però hanno nomi più o meno grossi dietro. Cioè, se Roma fosse a quel livello, caspita, ce ne fosse. Sempre, ripeto, non vicino a quello di Venezia, però il problema è che non è così, per cui... Sì. E vabbè, comunque, detto questo, sono d'accordo con voi. La selezione di Venezia sembra veramente eccezionale dal punto di vista qualitativo, insomma. Tanti bei nomi. Quella l'anno scorso, ne sta uscendo distrutta, ma non era male per niente, insomma. No, era già iniziata da lì una certa risalita. Anzi, direi che come livello ci siamo, anzi... Io non mi ricordo, che ci stava l'anno scorso? C'era Cronenberg, Polanski... No, Melancolia... No, forse era Cannes, vabbè. Sì, Melancolia mi sa che era Cannes. Pochi italiani, qualcuno dice pochi italiani quest'anno, anche l'anno scorso. C'era Madonna, che chi se ne frega, però c'era il film di Al Pacino... C'era quello della figlia di Mann che è uscito quest'anno, insomma era una bella edizione, anzi non dico meglio ma quasi, non aveva tre grossi nomi perché insomma che lo stesso Malik che era stato già a Cannes, però Sofuro. A proposito di Mann, ma sarà il presidente della giuria qui o a Roma? Non mi ricordo. A Venezia mi sa proprio a Venezia. Mettiamo Venezia, dai, va bene. Di cuore. Giuria, aspetta che... Ma intanto do qualche news, sì, per chi vuole... Giuria a Venezia, sì, presidente di giuria. Boh. Va bene. insomma, doveva andare l'anno scorso, così premiava la figlia. No. Sì. Ma qualche news per chi ci vuole andare. I prezzi non sono così terribili. Tra gli 8 e i 14 euro a visione. Però molto interessante, per esempio Locarno non ce l'ha, una cosa del genere, è un abbonamento da 6 giorni, 110 euro, che non è male, perché con tutta la roba da vedere giornaliera per 6 giorni solo 110 euro è buona. Comunque dovete essere under 26. E poi c'è quello da 11 giorni che sono 150 euro, che non è male se proprio volete andarci. E beh, poi dai, allora andiamo noi. Ma sì, dai. Facciamo dai cosi, come si chiamano, i pass per la stampa, dai. E allora non paghiamo con quelli. Beh, siccome non ce li danno, poi dovremmo pagare, quindi. Ecco. No, un'ultima stilettata a Venezia. Ha sempre voluto fare il festival a livello degli altri, no? Festival serio, nomi seri, premiamo il film iraniano, premiamo questo, premiamo quello, va benissimo. Però è inutile se poi tra i vari eventi fai, che so, la retrospettiva sui film di Bombolo. È proprio un contrasto enorme. Cioè, te le vai a cercare poi le critiche e essere chiamato festival di serie B. Dico solo questo. Film in sala. Allora, La memoria del cuore di Michael Suksi o Suksi o Suksi. Nome è un programma. Sì. Sax. È il suo primo lungometraggio. È già arrivato in Italia qualcosa di suo, che era Grey Garden, una roba del genere. Non mi ricordo, quello sulle eterne dive. Purtroppo ho visto, sì, solo televisivo. Non era neanche malissimo, però era proprio classica produzione televisiva. Che lascia, sì, appunto, era Drew Barrymore in un ruolo impegnativo, io non lo so, è stata proprio una cosa insopportabile. Infatti era una cosa televisiva, questa volta invece è proprio lungometraggio, proprio al cinema. Come ho scritto nella recensione, A voler essere cattivi e brevi è il classico, è il più classico dei film di Rachel McAdams, dove lei è bella, è intelligente, è un'artista, è eclettica, è bella, è tutto, e c'ha pure il fidanzato strafigo. Poi, vabbè, c'è qualche problemino tra di loro perché bisogna farci una trama, però è sempre così, protagonisti bellissimi, musiche più o meno tutte uguali, regia che va col pilota automatico, tanto cosa che devi fare, una semplice storia d'amore, non devi neanche inventarti niente. Cosa incredibile, anche le locandine sono tutte uguali. Non mi ricordo più l'articolo, non lo trovo più, ma faceva vedere che tutte le locandine di questi film sono identiche. Vabbè, si vede che funziona. La trama sembra uscita dal classico libro, anche qua, classico, di Sparks, che esce con un libro ogni 12 secondi, tutte storie d'amore, non so dove trovi il tempo di inventarsele, no? Le farà con lo stampino. Però è una storia vera, questa coppia, vabbè, adesso dico la trama, però è una storia vera. Chicago, durante una tempesta di neve più o meno, c'è un incidente in macchina in cui la bella di turno, Rachel McAdams, che si chiama, oddio non mi ricordo, Claire, no, Claire era nell'altro film, vabbè è uguale tanto. Ma può essere, anche io rimosso. Sta cercando, ah, se ne frega, okay, sì. È lei, la donna, viene sbalzata fuori dalla macchina, picchia una craniata contro un palo e ha problemi al cervello, non si ricorda più nulla. Infatti quando si sveglia la sua memoria è rimasta ferma a quando era una ragazzina di 16 anni che deve ancora iniziare la scuola di legge, che poi avrebbe mollato per fare la scuola d'arte. Non riconosce suo marito, che è Channing Tatum, bellissimo, scultoreo, si vede pure nudo, quindi ascoltatrice, andate a vedere solo per questo. Non se lo ricorda, e quindi il marito deve fare di tutto per ricordarle l'amore che lei provava per lui. Essendo tornata ragazzina, poi lei non vuole stare con lui, perché è un tipo di persona di cui lei si sarebbe interessata e innamorata più avanti nel tempo. Quando è una sedicenne, la classica figlia, la figlia di papà, che è interessata più ai soldi, magari alle cose più materiali, infatti vuole fare legge perché è spinta appunto dal papà, più legata alla famiglia, più legata a gente dei quartieri alti di cui lei è vissuta, e non gliene frega niente di questo Tatum, che è uno studio di registrazione dei poveri. E allora tutto il film è qua, tutto qui, lui deve riuscire in qualche modo a convincerla, senza però cambiarla. È questo, ricordati di quanto mi eri innamorata di me, appunto questa memoria del cuore. Il commento comunque è tutto lì, è il classico film di Rachel McAdams, lei bella, brava, è tutto, non c'è altro da dire. Nella recensione facevo solo un paragone con un suo film precedente, molto interessante, che era Un amore all'improvviso, in cui le trame sono simili perché anche lì c'è una ragazza da convincere ad innamorarsi di un uomo a cui è destinata. Era più complicato, lì c'erano i viaggi del tempo, eccetera, però mentre lì era molto facile per l'uomo farla innamorare di sé perché era l'uomo con cui poi nel futuro si sarebbe messa, questa volta è il contrario perché sta già con lui, ma è come se fosse lei tornata indietro nel tempo e non sta, è un casino. Comunque, facciamola breve, se vi interessano i film della Rachel McAdams, questo è, andatevela a vedere. Sono protagonisti belli, è un film che alla fine si guarda pure, ed è c'è una bellissima Chicago, quello è forse la cosa più bella, punto. No. Ah sì, l'ha visto anche Intrinseco. Sì, ma lo devi smettere tu di chiamarmi Monco, Madonna. Già sono confuso. Io non è che ho detto Monco. Sì, e che aggiungere? L'ho visto proprio per bontà d'animo, no, non è vero, per farmi del male, per punirmi. Più che ribadire, vi consiglio, invece di vedervi questo, vedetevi 50 volte Il primo bacio con Adam Sandler, tanto è la stessa cosa. Era vero, anche lì, se lei perdeva la memoria, lui la doveva far rinnamorare. Cioè, hai sacrificato 2 ore della tua vita o quanto dura il film? Per trarre questa conclusione. No, è vero, io già non sono un grande fan delle commedie romantiche, no, comunque i film romantici. Le drammi. Devo proprio avere... Sì, anche se qui il dramma poi diventa abbastanza leggero. Questo davvero non mi fa cambiare idea sul genere. Mi devono proprio colpire per qualcosa. Questa è un'idea ipoteticamente vincente, ma ho perso interesse molto presto. Posso dire una cosa interessante, l'ho visto sullo schermo del computer fuori dalla mia finestra, ero seduto sul balcone e qui è stato bello, ero al fresco. Vi consiglio di fare lo stesso. Okay. O magari di spendere i soldi al cinema, visto che non siamo per la pirateria, così, eh? Io ho un cinema a casa e lo guardo dal mio balcone sullo schermo del computer, hai detto, va bene. Riflette. Non c'aveva anche il proiettore. No, questa ipocrisia, madonna. Ragazzi, andate al cinema, questo film è bellissimo. No, ho detto quello. ma tu dove l'hai visto? Vabbè, che facile, leviamo dalle scatole contraband. Travolgiamo l'ordine. Bello. Sì, dai. Ma come, non vedi l'ora di parlarne, di la verità. No, non vedo l'ora di levarmelo dalle scatole. Allora. Un film bellissimo di questa settimana. Sì, un film meraviglioso. Ci lamentiamo, se non c'è nulla, e poi escono tutti questi film e ci lamentiamo, ma insomma. Siamo solo dei lamentoni noi. Sì. Pensa che se viviamo in Slovenia ci beccavamo Prometheus e The Dark Knight Rises, quindi. Vedi? Allora, parliamo di Contraband, film diretto da Baltasar Kormákur, che c'è l'accento sulla A. E con protagonisti Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, insomma, cast di alcolisti anonimi, ecco, vabbè. Allora, anzi no, solo anonimi, senza gli alcolisti. Allora, la trama. Il personaggio di Wahlberg è un ex marinaio, anzi, diciamo meglio, ex contrabbandiere, che ha deciso di abbandonare, insomma, la malavita e dedicarsi quindi a un'attività onesta, un'attività legale, ovvero mette in piedi una società che installa impianti d'allarme, insomma, cose del genere. E tuttavia viene ributtato nel mondo dell'illegalità dal fratello della moglie, dal cognato, un giovanotto bastardotto, insomma, cretinotto, che Determinetto che praticamente manda all'aria una una contrabbandata, no? Come la posso dire? Una contrabbandata è un nuovo termine. Bandiera. contrabbandierata, sì. No, vabbè, praticamente durante un viaggio butta a mare un carico di cocaina, ovviamente chi aveva commissionato questo carico si incazza e quindi il personaggio di Mark Wahlberg è costretto a rientrare nel giro per salvare la vita del cognato. Poi ovviamente durante il film verranno messi in pericolo anche moglie e figli di Wahlberg, perché così ha detto il regista e lo sceneggiatore. E vabbè. Allora, è un remake di un film del 2008 di un regista islandese, ovvero Oscar Jonasson. Il film si intitola Reykjavik Rotterdam. La particolarità è che anche Baltasar Kormákur è un regista islandese, però vabbè, il film ovviamente è ambientato a New Orleans, anche se non sembra una città del sud, ma non lo so, almeno da quello che da come vengono di solito rappresentate le città del sud. Del sud degli Stati Uniti, mi sembra più che altro una Boston, mi avrei detto. Sì, è un film fiammifero. Praticamente a me non ha annoiato, invece ho sentito che già intrinseco l'ha definita una sana rottura di palle. E me non ha annoiato, però effettivamente dopo non ti lascia nulla. È un film abbastanza sempliciotto. Il regista scimmiotta un po' Mann, sia con la telecamera a mano, sia con quelle riprese a volo d'uccello, e niente, abbastanza anonimo, insomma. C'è Mark Wahlberg, che fa il solito personaggio che interpreta in ogni film di gangsta, ovvero... Fa se stesso, è l'ex ladro di macchine che si fa una carriera come attore. Tappetto fighetto, insomma, sì. Sì. Che poi, ormai quando c'è Wahlberg sulla scena, il cielo è plumbeo, ci stanno i pick-up e le case sono fatte di legno che inizia... Sì, ma non è una scelta del regista, è proprio così, cioè la sua presenza compromette tutto, sì. Sì, ma le agenzie quelle di casting, cioè lo mettono proprio, penso, sulla scheda, che quando ci sta Wahlberg in scena deve andare così. Anche perché, vabbè, Wahlberg comunque è anche produttore, quindi immagino sì. Abbia imposto queste... E c'è un'altra cosa interessante, Baltasar Kormákur, il regista, era il protagonista dell'originale. Mego io. Sì. Gli piace così tanto, l'ha voluto rifare con un attore cane. Chissà com'è lui, come recita, per scegliere Wahlberg. Ma con quel nome. Beh, c'è una foto su Wikipedia, c'è più pelo che pelle. beh, quindi già un action un po' più fisico, con un protagonista un po' più credibile. Wahlberg, dai, la faccia lì. No, sì, infatti non capisco perché sostino a proporci Wahlberg come eroe di azione quando... Ma poi, vabbè. Giusto per continuare, dico la mia e così la chiudo qui, già dall'inizio, già dal trailer in realtà, la prima cosa che mi viene in mente è fuori 60 secondi, non so se vi dice qualcosa. Non ho visto il trailer. No, beh, anche il film, non so se hai visto il film fuori sì, 60 sì, secondi, sì. Certo. L'originale e il remake, è la stessa storia, no? Questo qui che si ritira, in questo caso non è suo fratello, ma è il fratello della moglie che... toppa con un carico, lì erano le macchine, qui la cocaina, e lui deve rimediare, deve rientrare, deve ritornare per la solita storia, l'ex criminale che deve si è lavato la coscienza, ma deve ritornare a fare un ultimo colpo, però è tanto buono perché sta aiutando qualcuno. E stessa storia, nella posta delle macchine c'è il cargo, e di conseguenza, non essendoci le macchine, è da qui mi collego alla noia, cioè perché c'è una prima parte davvero in cui non succede quasi nulla. C'è adrenalina zero, poi c'è quella fase a Panama comunque dove sbarcano e lì finalmente si ravviva un po', però davvero come action con la contrabbandata, come l'hai definito tu, è un po' noiosetto. Poi sì, certo, è il classico film che ti fa passare quell'ora e 40, quell'ora e mezza, però tutto troppo simile, poca adrenalina, poi sì, tutti che scimmiottano questo man, ma comunque si scimmiottano tra di loro, perché la cameramano o finta cameramano, ormai chi è che non la usa in questi generi qua? Cioè, non la vedi nella metà dei film che escono. E poi la parte di Panama c'ha dei buchi di sceneggiatura enormi, cioè non si capisce come sì. Riesco a farlo. Vabbè, però guarda caso è la sua parte migliore, perché almeno dice, vabbè, mandiamo un po' a quel paese la logica, però almeno c'è un po' di divertimento, c'è una... Sì, soldi che spariscono, dico, va bene, facciamo una rapina. C'è il Diego Luna che interpreta il gay di Milk con la pistola in mano, praticamente identico. Sì. Vabbè. E poi non so chi è che porta un pollo a capana, ma scusa, ma non ha senso. Ma poi ci stiamo a scordare il vero valore aggiunto della pellicola, che è lei. Beckinsale. No, Giovanni Riviso. Ah, è vero, il più grande della storia. cioè se Wahlberg non è credibile come redazione, figuriamoci Ribisi come cattivo, insomma. Che poi... non so se l'hai vista in lingua originale tu, ma no, Giovanni Ribisi è una delizia, questa vocina che ha lui la rende ancora più acuta, vuole fare il gangster. Sì, ma anche il doppiatore italiano è quello di Steve Buscemi, quindi è quindi, la stessa voce. Ma lui fa tutto un lavoro sulla pronuncia, vuole fare lo pseudo gangster, ma è fantastico. Che poi qua ci scappa. C'è da scappa. Si becca il cazzotto e la pistola alla fronte, ma che cattivo è? Che poi qua ci sta pure il filo rouge, no? Perché abbiamo detto che se si mi dà fuori in 60 secondi, anche lì c'era Giovanni Ribisi. Eh già. C'è proprio il tipo di film in cui c'è Giovanni Ribisi, che interpreta il cattivo. Cosa faceva in fuori 60 secondi? Faceva il fratello sfigato che aveva messo... Lui che provocava, non mi ricordavo più. Ma già, è vero. Madonna. E neanche lui si è accorto di essere nello stesso film. No, secondo me continuava a fare il fratello coglione, perché infatti... No, secondo me l'unica cosa positiva, perché vabbè, non è che fa la parte così grande o fa una performance così eccezionale, però c'è Ben Foster che era un po' sparito dalle scene, a me non dispiace come attore, come villain, che in fondo un po' gli dispiace pure che te sta fregando. Ecco la spoiler... E vabbè, dai, su, spoiler, ma non ve l'ha data a vedere, ma per carità, cioè, guardatevi, non lo so... La memoria... 60 secondi, dai, che già l'avete visto, perché l'hanno passato 20.000 volte in televisione, dai. E la cacata con Angelina Jolie. E con Giovanni Ribisi, come abbiamo detto, vabbè. E Bad Time? Dai, parliamo di quella. Tu non l'hai visto, Contraband? Sì, ma ho praticamente dormito. Vabbè, allora... Stavo facendo altro mentre lo guardavo. Ero proprio distratto mentalmente. Sì, quella vabbè, la guardavo, però. Tra l'altro, visto abbiamo parlato di Kate Beckinsale, cioè l'unico momento in cui potrebbe osare il film non osa. Perché c'è. Il happy ending non ci sta per niente. Ecco la spoiler. Un po' alto spoilerone, però c'è. Comunque è inverosimile. Dura 20 minuti questa cosa. Sì. Vabbè, dai, passiamo ad altro che è meglio. Sì, ci ha smontati questo film. Eravamo carichi e invece vedi film adrenalinici che ti smontano. Vabbè. Sì, passiamo a Bad Time, che è meglio. Allora, intanto premetto, io questo film lo volevo portare nella puntata dei film dispersi perché è dell'anno scorso. E poi ho detto, lo prendo. E invece, proprio quando stavamo scegliendo i film da portare, l'hanno annunciato al cinema e l'hanno messo veramente. Quindi sono contento. Tanto mi sa che c'è pure una buona distribuzione, perché sta anche qua da me, che di solito film del genere non li proiettano. E quindi ne approfitto, mi ricordo una cosa, che non so cos'è cambiato da qui a quando ho letto la news, comunque esordio come quarto posto al botteghino. 159 anche... sale, non male. Mi sta andando bene, non so cosa, adesso non è che ci sia in sala chissà cosa, però tra tutti i film quarto posto non è malissimo, dai. Vuol dire che... qualcuno è andato a vederlo, per fortuna. E sì, è un film del 2011, e è importante perché è di Jaume, credo si pronunci, non so, non mi sono mai dovuto, scrivo sempre i nomi dei registi, poi quando devo pronunciarli mi trovo in difficoltà. Comunque, Balagueró, Jaume. Che non è un futuro? No, infatti, non so, Balaguerai, egli Balaguerò. Appunto, è un passato, che dici? Balagueró. Balagueró, ci sta lanciando sulla O. E appunto, ma possiamo andare avanti. Egli Balagueró, non è un futuro, mannaggia. Io Balagueró. Vabbè, dipende. Questa parentesi. Vabbè, la grammatica è importante. Parla di questo remake del Riccio, dai. È vero, sì, infatti... magari il Riccio fosse stato così. Però questi film europei col condominio è un genere che tira. Va bene, sì, in breve la trama, così passo subito ai punti salienti. Premetto, Balagueró, ve lo ricordate, è quello di Rec, purtroppo, soprattutto il 2, purtroppo, e si prende una pausa, e spero se ne prenda di più, perché questo è un film tranquillo, disteso, molto più spagnolo dei Rec, anche se, insomma, anche lì lo spirito mediterraneo si sentiva. Quanto pare questo regista fa meglio quando non ci sono grossi soldi dietro, quando non ha bisogno di tirare avanti coi sequel. Quindi Bad Time, che ha già tre titoli diversi, perché il titolo internazionale era Sleep Tight, non so perché in Italia esce con questo titolo, come era successo con Blood Story, che in Italia è uscito con questo terzo titolo inglese che non si spiega. Comunque, l'originale Mientras Duermes parla di questo portinaio che si chiama César, che portinaio tutto fare di questo condominio, che si prende cura un po' di tutti i condomini, ed è insomma un tipo molto affettuoso con tutti, è il portinaio perfetto. Tutti si fidano di lui, tutti gli confidano i loro segreti, i loro fastidi, lo tormentano con i loro problemi, e lui insomma, affronta tutto sorridente, in particolare con questa Clara, che è una delle abitanti del palazzo, che è una bellissima ragazza, tra l'altro interpretata da un'attrice che è anche la compagna di Luis Tosar, il protagonista, e sembra ci sia anche qualcosa tra i due attori. Tra i due personaggi, e questo nella premessa. Dopodiché vediamo che è tutta una finzione, insomma, César non è quello che sembra, è un vero stronzo, insomma, è una persona che dice di avere dei problemi psicologici, confida attraverso un monologo che è l'unico suo spazio di comunicazione col pubblico, in cui spiega che crede di essere malato, comunque non prova felicità, è incapace di essere felice, e quindi l'unico suo modo per trovare questa felicità o comunque trovare sollievo è punire gli altri, comunque rendere gli altri infelici, e il suo bersaglio diventa proprio questa Clara, che c'è un perché, insomma, lei è la classica tipa ottimista che qualsiasi cosa le capiti affronta la giornata e la vita con un sorriso, e lui se la prende proprio con questo sorriso, si sente proprio nei monologhi, dice letteralmente vuole strappargli il sorriso dalla faccia perché non può sopportarlo, lui è così infelice, lei è così solare e lui deve rifarsi, e quindi si accanisce contro di lei, usa i suoi poteri di portinaio, le sue chiavi, i suoi accessi per intromettersi nella casa di Clara mentre lei è assente, si nasconde sotto il letto, aspetta che lei rincasi e si addormenti, e la droga con l'etere per tramortirla e per poter fare tutto quello che vuole. Non vi dico cosa fa, perché va dal divertente allo sgradevole, però fa di tutto, insomma, da cose innocue a cose che diventano sempre più morbose e sgradevoli da vedere. E mi spiace anche dire un po' la parola della trama, perché già l'inizio è bellissimo, però insomma la trama la dicono dappertutto, ve l'ho detto anch'io. Comunque c'è questo splendido inizio, un uomo sdraiato a letto vicino a una donna e dice che bella coppia felice, e lui si alza, si lava, esce, va a fare il suo lavoro, e lì ti rendi conto che lui in quella casa non c'è entrato con il permesso della donna, ma appunto si è intromesso e l'ha drogata. È una cosa davvero disturbante, no? Ho letto che Balagherò voleva proprio raccontare una storia su questo, cioè su quello che succede mentre dormiamo, da qui Mientras Duermes. La cosa che mi ha colpito invece è che il film, almeno a me, ha colpito per un'altra ragione, cioè perché ti immedesimi con chi fa le cose che fa mentre dormi. Almeno a me è capitato di entrare così in sintonia col personaggio, ovviamente non credo riuscirei mai a fare quello che fa lui, però sì, perché insomma è un po' preoccupante. Ma è il bello di questi tre. No, però sì, c'hai ragione, volevo fare la battuta. Sì, certo, sì, sarebbe, sì, in effetti. Ma lo faccio. Non sai, non controlli mai sotto il letto, per cui non puoi saperlo. Però ottiene l'effetto opposto. Si può dire che non ha funzionato il film, però è comunque bellissimo. Tu sei in perenne contatto con il punto di vista di quest'uomo, lui ti confida tutto, ti dice tutto quello che non va in lui, ti fa vedere cosa fa, tu assisti proprio ai preparativi, lui che prende il borsone, mette dentro i suoi attrezzi per fare le sue cose, entra, si mette lì, sta la mezz'ora sotto il letto, le ore, è anche carico di suspense, perché capita magari che lei non si metta a letto subito e quindi lui rimanga sotto il letto per delle ore, è molto hitchcockiano in questo, verrà scoperto, è lì dietro l'angolo, deve uscire ma non può uscire, la maniglia, il dettaglio dell'oggetto che potrebbe farlo scappare, la chiave che non c'è, davvero anche un ottimo thriller da questo punto di vista, pur essendo atipico in tutto. Quindi è un film cinico, a me è un debole per i film spagnoli, soprattutto di questi ultimi anni, da Almodovar, comunque ispanici in generale, ma in particolare spagnoli, Alex de la Iglesia, lo stesso Balagueró con questo film, mi piace molto, c'è un po' di ironia, non troppa, che non stona, c'è cinismo, c'è cattiveria, hanno un gusto splendido per il macabro, e non so, ogni volta che vedo un film di questo tipo mi innamoro. Dovrebbero avere più soldi e farne di più, perché poi non sempre riescono, però sono davvero genuini, c'è questa allegria mista al nero, più nero, non so, io li adoro, e questo film è interessantissimo, è divertente, macabro, spaventoso, c'è suspense, c'è divertimento, c'è, ti senti in colpa, perché come dicevo, entri nella testa di questo personaggio, vedi quello che vede lui, sei un po' voyeurista, lo spii e spii questa Clara che dorme, che viene tormentata, e almeno a me è capitato di divertirmi, di ridere di quello che succede a questa ragazza, anche se poi diventa terribile, e quando pensi che lui abbia superato il limite ti accorgi che ha un piano architettato in modo dettagliatissimo per fare del male a questa ragazza, un male non fisico, comunque ripeto, non è un thriller classico, non c'è una violenza fisica, non c'è un orrido richiamato, è più sottile come stile, quindi ti capita di osservare quello che lui fa, di vedere l'effetto, bello, guarda cosa fa, cosa... ti senti anche un po' in colpa perché è terrificante. Mi sono divertito un sacco e sono contento che sia arrivato al cinema. No, vabbè, quello che stavo dicendo è che tu dici effettivamente in certi momenti ti viene da ridere, però è voluta la cosa, perché comunque anche la colonna sonora a volte cambia di toni all'improvviso, così, perché comunque alcune delle punizioni che il personaggio interpretato da Tosar infligge, insomma, alla sua preda fanno effettivamente un po' ridere. Sì, non tutte sono, ti dicevo, non è una tortura, non è un, ecco, è bello, anche bello questo, in contrapposizione ai torture porn, i famosi horror europei basati sull'eccesso, è bello proprio per questo, ti colpisce emotivamente e ti fa anche sorridere con delle cose, sì, poi senza spoilerare, comunque i primi scherzi sono cose che magari potremmo fare anche noi nella realtà, senza troppe, mettere le uova o comunque attirare gli insetti in casa, nella casa di una ragazza che non li sopporta, e poi sì, in effetti anche questa musica che, sì, dicevo, c'è ironia, ce n'è molta, voluta. Diciamo che è tutto uno scherzo, poi però ce va giù pesante sul sì, finale. Molto, il finale è fantastico, davvero quel sorriso che fa ogni volta ti colpisce. Beh, doppiamente, perché... Anche la sensazione che comunque rinizi un ciclo, perché poi comunque da quell'idea che... vabbè. E no, vabbè, di tutti i finali. No, vabbè, aspetta, ho detto una cavolatina, dai. Vabbè, io volevo dire giusto tre cose. Allora, la prima, tu dicevi dell'empatia, effettivamente, anche e soprattutto se hai avuto esperienze lavorative, diciamo, in lavori che richiedono comunque il contatto con la gente, la cosa forse più fastidiosa in questi lavori è il fatto che nessuno ti risponda al buongiorno, al saluto, oppure nessuno dica grazie, nonostante sì, vabbè, è il tuo lavoro, però insomma la cortesia ci deve stare. Qui è bello anche questo, perché Clara forse è l'unica che lo ringrazia, sì, ne approfitta, perché comunque anche lei, come tutti, insomma, è il suo lavoro, però lei è l'unica che gli sorride, che lo saluta ogni giorno, per cui lei se la prende con lei, invece magari che con la bambina che lo tormenta ogni giorno, gli fa le peggio cattiverie, non diciamo altro. E beh, è curioso, no? Lui vuole proprio colpire il buono, vuole colpire lei che è felice, è buona, è gentile, davvero cinico in questo. Sì. E niente, poi vabbè, comunque questo meccanismo di empatia secondo me raggiunge l'apice in una scena in cui... diciamo lui diventa una preda in un certo senso, no? Senza spoilerare niente, diciamola così. Vabbè, una cosa ho detto anch'io prima, capita che si trovi in situazioni in cui non può uscire dal suo nascondiglio, può fare sì, però proprio la scena principe che... sì, no, era per far capire, comunque non è uno spoiler, succede anche più di una volta nel film. E niente, poi la terza cosa che voglio dire è che comunque lo sceneggiatore di Bad Time è italiano, Alberto Marini. Sì, che non è neanche la prima volta che lavora con Balagherò, se non sbaglio, sì. Non lo so, mi sembra di no, perché comunque era... sì, immagino non sia la prima volta, perché in un'intervista di Bad Taste si intuisce il fatto che abbia lavorato altrove, però sinceramente dobbiamo cercare un attimo su Wikipedia, che tanto non ha una pagina su Alberto Marini, quindi... Se non ricordo male, c'entrava con i... è comunque stato legato ai primi film di... Sì, vedo che è coinvolto in Fragile... Sì, ma anche prodotto, sacco di roba, Rec 2, anche un produttore, perché ha prodotto anche Rec 2 e Rec, quindi sì, comunque una bella personalità, peccato che non stia in Italia, insomma. Ecco, ha scritto probabilmente alcune delle sceneggiature di una serie di film che da noi non sono arrivati, tra le cose che mi piacciono la Spagna, vedi, non erano granché, però e basta. Ha prodotto una serie di film per la TV che si chiama Film per non dormire, e quindi ha scritto uno di questi film. È uno sceneggiatore, ma soprattutto vedo che è nel miscellaneous crew, cioè nel cast tecnico di un sacco di film spagnoli. Sì. Insomma, è un peccato però che una personalità del genere debba andare all'estero, insomma, visto che qua, come dice lui stesso in un'intervista, si producono soltanto commedie o drammi politici, vabbè. E vabbè, visto che comunque ci abbiamo ficcato un sacco di Juventus in questa puntata, perché cosa buona e giusta, in una domanda, insomma, durante l'intervista di Bad Taste, gli chiedono... comunque di questa cosa perché ci sta la maglia della Juventus, perché si intravede in un frangente che la ragazza ha una sorta di canotta della Juve, e praticamente c'è questa usanza recente, diciamo, nel cinema spagnolo, che in ogni film della cricca, insomma, dei registi horror, ci sono dei riferimenti al calcio. Ad esempio, in 28 settimane dopo, Fresnadillo ha inserito una maglietta del Real Madrid. Paco Plaza ha inserito un riferimento al Valencia in Rec 2, e quindi lui ha voluto mettere comunque una maglietta della Juventus in Bad Time. Che simpatici. Vedi che simpatici? Vabbè, almeno loro lo possono permettere, noi possiamo fare manco questo, dai. Sì, magari avessero un horror thriller. Non abbiamo una scena horror. Spagna. Sì, è paradossale, perché poi una volta la Spagna, beh no, ha sempre fatto film di questo tipo, però viveva molto di riflesso. Rispetto alla Francia e all'Italia, eppure adesso è sì, come al solito, poi i grandi registi horror stranieri hanno preso il buono che c'era in Italia e ne hanno fatto qualcosa di meglio. Noi invece viviamo ancora fossilizzati, cioè ancora Argento fa i film, cioè questi qui Argento l'hanno visto a 15 anni, ne hanno fatto quello che dovevano farne, tenuto conto del buono e lasciato via il resto, e hanno fatto un buon cinema. Invece noi cosa facciamo? Continuiamo a rifare, e quando facciamo queste cose vengono delle cose patetiche, che sembrano girate in economia, cioè è imbarazzante. Invece di prendere noi il buono del nostro paese, il poco che c'è, non ne sappiamo fare nulla di produttivo, ci devono pensare gli stranieri, come al solito. Sì, questo remake del Riccio, con alcune citazioni evidenti a me lì, sì, è Gagliardo, molto gestita bene la tensione, vabbè, forse è eccessivo parlare di scene hitchcockiane, però sì, sono veramente fatte bene, eccetera, eccetera, eccetera. Solo due cose, che siamo alla tarda. L'empatia ve la mettete dove non batte il sole, perché io empatia per sta merda non ce l'ho proprio provata, ma neanche all'inizio, ma zero proprio. Prima di tutto... Vabbè, non lo salutano i condomini, ma poverino, intanto è il suo lavoro, che lo faccia, anche se non lo salutano, perché allora cos'è, è legittimato a fare quelle porcate che fa? Ma no, ma non credo volesse dire che è una giustificazione, cioè che è un ruolo, un tipo di personaggio in cui, a prescindere da quello che fa, è facile provare, per cui è facile provare, non dico empatia per forza, però capirlo, no? Penso volesse dire quello. Ah, ma lui? Cioè, come personaggio, al di là di quello che farà, nel senso, lo vedi, è un uomo comune che si becca anche con un po' di merda in faccia, spesso non meritata, boh, voleva dire quello, penso, poi non lo so. Ma chi, Alex Diro? Lui ha parlato del fatto del lavoro di portinaio, del non salutare. Sì, vabbè. Non ti salutano mai, ogni tanto ti viene pure voglia di lanciare una scopetta in testa, insomma. Vabbè, ti fermi lì. È comprensibile. Ah, poi il film comunque non è schierato da un punto di vista morale, non c'è una posizione morale né una giustificazione. È bello per quello, no, però continuate a parlare di empatia, no. Sì, non magari è un po' esagerato, però... Forse è meglio dire immedesimazione col punto di vista. Soprattutto perché per le cose che fa, soprattutto la notte, una persona non cosciente, no? Io sono molto legato al sonno, è una cosa che mi tocca... molto, quindi no, non riesco neanche a... anzi, cioè, da una parte dico che è uno dei migliori cattivi dell'horror, dell'ultimo periodo, è il più disgustoso dell'ultimo periodo, è favoloso, è disgustoso solo a ripensarci, quell'essere, poi già come lui, è un attore orribile, è orribile, pure insieme a quella ragazza, incredibile. E poi l'altra cosa... il rapporto con la bambina, che qui è complice. Di solito i bambini invece, soprattutto negli horror, nei thriller, sono sempre quelli che tac, ti fanno ti castrano il cattivo, senza citare Emma il mostro di Dossendorf, ma tanti casi. Invece qui è proprio il contrario, la bambina è complice fino a un certo punto, lo è. Poi sai io che spoiler, vabbè, si vede che subito, dammi 20 euro, faccio, è complice da subito. E vabbè, e quindi Gagliardo. Promosso, dai, promosso. Sì, soprattutto l'attore fisicamente non è merito suo, ma è anche però l'ho visto, cioè in Cella 211 è già un fisico più invidiabile, che secondo me è il taglio di capelli e il look che lo rendono miserabile, ma lui comunque è grandioso, dicevo, quel sorriso terribile, sì, è odioso, è un cattivo fantastico, nel senso, io parlavo semplicemente di più che empatia, perché in effetti è sbagliato, empatia a livello emotivo non ce n'è, sì. Però vedi quello che vede lui, cioè sei sempre ti immedesimi tuo malgrado in quel personaggio, ma perché ti portano in quella direzione, cioè hai sempre l'occhio su quello che vede lui, hai sempre la sua voce nelle orecchie, semplicemente sei portato a essere in sintonia o a capire quello che lui fa, pur non approvandolo, ovviamente. Ecco, io adesso vorrei fare una domanda al Monco, però immagino che facendo quella domanda spoilererei la scena di cui si parlava prima, in cui diventa una preda, quindi non lo so. Sì, cosa magari la faccio, magari te la faccio poi se edito, però tu in quella scena, no? Che immagino che hai capito qual è. Sì, sì. Che sensazioni provai nei suoi confronti? Mi scappava la pipì, no? No, sì, lì è ti immedesimi totalmente in lui, cioè è braccato, e poi soprattutto quando sì, si spoilera parecchio, quando eh sì, ma quando viene scoperto, dai. Vabbè. Vabbè. Ma sì, tanto non è il finale, vabbè. Quando viene scoperto, lì proprio dice e mo? Quando è lì con la chiave che gira, cioè stai lì con lui a pensare a una scusa. Sì, sì, però da una parte sì, funziona, perché da una parte dico, ecco, adesso fracassatelo di botte quella merda lì con quei peli in testa e quelle sopracciglia monolitiche, però dall'altra dico, cazzo, dai che ce la fai, quindi sì, no, è scritto da Dio, sì, però dico, che no, non si siamo amici di questo qui, non proviamo nulla, l'unica cosa in cui Balaghero calca la mano è quel vecchiaccio del cazzo, che è la cosa divertente, che gli rompe le balle seriamente, e il vecchio quasi si merita di essere stuprato di notte, però no. Questo sì che è uno spoiler. Non dovevi dirlo, spoiler. Vabbè. No, non dovevi dirlo, vabbè. Promosso a pieni voti, andate a vedere questo, anche perché il resto è abbastanza cagoso. Ah, sì. E poi, per le prossime 2 settimane non c'è nulla, avviso già. Te lo stavo per chiedere, quindi vabbè, sì, non ci sta niente, ragazzi. La settimana ce n'è uno solo interessante, che è una specie di horror con Daniel Craig, che non è neanche cosa? No, niente, è in attimo saltato. Ah, con un horror con, credo horror con Daniel Craig, ma non ho approfondito. Mentre la settimana dopo, zero. Non esce nulla, letteralmente. Sì, quello lì è Dream House, non potrebbe essere interessante. C'è anche Naomi Watts, Rachel Weisz, se ne parlava da un po'. Sembrava una cosa un po' più psicologica, però non so. Il 10 agosto esce Nudi e Felici. Punto nulla. Noi facciamoci passare Dream House, se esce, e poi amen. Parleremo di Locarno, perché vedremo cose in anteprima, almeno un paio. Vabbè, fondamentalmente fino al 29 che esce Dark Knight Rises non esce nulla. Vabbè, Mercenari esce 2. Vabbè. Ma non so, io quella settimana avrò gli occhi puntati su LOL, pazza del mio migliore amico con Miley Cyrus. Non so se avrò tempo per Mercenari 2. Effetti. Vabbè, dai, panziamo invece che passiamo, vabbè. Inizio a incrociare. Aspetta. A proposito di rec di POV, volevo segnare una cosa che non valeva la pena fare una news. Comunque è uscito un teaser di Paranormal Activity 4, che anticipa un trailer che dovrebbe uscire a breve. Madonna, che quindi palle, esce però un quarto Paranormal Activity. Non ci sperava più nessuno, vero? Forse speravamo il contrario. Sì, ero sarcastico, perché insomma, uno sperava che col terzo avessero detto tutto quello che c'era da dire. Ma c'era qualcosa da dire? No, però vabbè. ma me lo chiudevo una trilogia, invece no, non basta. Vabbè. Purtroppo. Vabbè. Passiamo ai conigli. Dai, conigliaci qualcosa, Monco. In queste giornate di sole bevete molto e state all'ombra, questo è il mio consiglio. Ok. No, vabbè, consiglio Sui marciapiedi di Otto Preminger, che è un film meraviglioso, un noir del 48 se non sbaglio, del 50. E se siete fan come me di Preminger, vi ricordo che Locarno fa una retrospettiva totale o quasi sulla sua filmografia, quindi Gagliardo, si va. Sì, segnalo due cose. Intanto, visto che ho parlato di Bad Time, c'è un altro film spagnolo che però non ha avuto la fortuna di arrivare al cinema, lo stanno facendo adesso su Sky Cinema, Con gli occhi dell'assassino, un titolo un po' inappropriato, ma vabbè, con Belén Rueda, non è malissimo, si perde un po', un ottimo soggetto, un po' buttato alle ortiche, però visto che si parlava di Spagna, mi è venuto in mente, datevi un'occhiata, se avete Sky, se no dovrebbe essere uscito ormai, perché è passato un bel po'. E poi un altro film carino, che tra l'altro mi è venuto in mente, c'è un attore che in La memoria del cuore faceva l'ex ragazzo di Rachel McAdams, quello con quel sorriso particolarissimo, intitola Good Neighbors, oddio non ricordo il regista, comunque Good Neighbors, è del 2011, anzi 2011 uscito, ma è del 2010, è una black comedy, molto black, poco comedy, con un finale a sorpresa, ambientato in Canada, molto particolare. Se riuscite a trovarlo, perché non è proprio facile, dateci un'occhiata. Io ci sono le Olimpiadi, quindi non vi consiglio niente, perché sto in pausa sportiva. Principino, grande. E vabbè, allora dai ragazzi, ci salutiamo. Ci vediamo per la puntata, ci sentiamo per la puntata 9. Quando è che andate a Locarno voi? Domenica 9 e agosto poi... sicuramente, e poi il 5 forse. Questa domenica e venerdì prossimo. Giovedì. Ok, quindi ci sarà un reportage approfondito. Ah no, cacchio, sono su luglio, ok, sì. Dicevo, ci sarà un reportage approfondito. Mi aspetto anche un servizio fotografico da parte del Monco. Va bene. No, già nella prossima puntata ne parleremo della prima visita e dovremo vedere un film in anteprima di Whitley, uno che piace a Intrinseco, quindi, e ne ha parlato con Kill List. Quindi. Il regista di Kill List presenta l'ultimo, che era stato presentato anche a Cannes, Sightseeing, sembra interessante. Ok. E vabbè, quindi ci vediamo ci sentiamo per la nona puntata, salutiamo. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti, belli brutti.